Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori da parte di Diego Manetti, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria per questo consueto appuntamento del primo sabato di ogni mese, che si propone di sollevare il velo su un tema come quello della escatologia, della vita eterna, che sovente viene censurato, viene passato sotto silenzio. Abbiamo detto che oggi più che mai c'è bisogno di riscoprire il senso della vita, la sua consistenza, soprattutto in questo tempo ormai da più di un anno segnato dal dramma della pandemia da Covid-19, ci si accorge che la vita umana è davvero fragile, ma che dall'altra parte su questo piatto della bilancia troviamo qualcosa che ben pareggia i conti con tutte le sofferenze, le inquietudini di questo tempo, il desiderio di qualcosa che vada al di là dell'esistenza terrena. Questo desiderio ha cominciato a fare capolino negli animi di tanti che proprio nella difficoltà, dove è emersa tutta la fragilità della vita dell'uomo, si sono chiesti: ma allora perché questo pellegrinaggio terreno? Per quale motivo questo cammino? Qual è il suo significato? Qual è il suo senso? E abbiamo cercato anche noi, una volta al mese, di affrontare queste domande, provare a suggerire delle piste di ricerca. Lo sto facendo seguendo il mio libro, Oltre la vita eterna spiegata a chi cerca, affrontando proprio il tema della morte e della vita dopo la morte. Arriveremo a parlare, diciamo così, dei quattro novissimi, e ci sarà il tempo di parlare del giudizio, anche dell'inferno. E proprio in tema di inferno, però, voglio così concentrare la conversazione di questa sera prendendo spunto da un libro pubblicato da pochissimo dalle Edizioni Segno, intitolato Inferno, la tragica scelta. Ed è un libro curato da Rita Sberna, che è una giornalista siciliana trapiantata a Roma, come si legge nella sua biografia, che ha avuto una svolta importante nella vita in seguito a un pellegrinaggio a Medjugorje compiuto nel 2009. E da allora diciamo che ha sviluppato una vita fatta di impegno, oltre che familiare anche di apostolato, in base alla certezza che seguire Maria porta a Gesù, ma questo è un convincimento anzitutto monfortano. Questo libro, Inferno, la tragica scelta, tratta del tema del male, del demonio e tutto quello che lo avvolge, ed è un tema che continua ad attrarre e a suscitare domande. La prefazione di Monsignor Giovanni d'Ercole dice che questo testo aiuta i lettori ad andare innanzitutto alla fonte, cioè alla parola di Dio, alla Bibbia, e quindi presenta quelli che sono poi gli insegnamenti fondamentali della Chiesa. Si potrebbe dire che è un ottimo vademecum da tenere sempre a portata di mano per chi volesse essere informato sul tema, e lo dico volentieri perché poi magari tra autori non ci si fa mai troppa pubblicità, ma essendo anch'io autore di testi e non uno solo sul tema del demonio dell'inferno, sono invece ben contento di dare spazio a questo libro, che parte proprio con il presentare il problema del male secondo la dottrina cattolica e poi presenta contributi diversi, tra cui un'intervista con Don Gabriele Amort, uno dei più grandi esorcisti di tutti i tempi, che è stato anche il fondatore dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, e poi alcuni riferimenti a quelle che sono le pagine più importanti della scrittura, ma anche le esperienze dei santi, dei mistici che hanno avuto visioni dell'aldilà. Ancora ci sono i messaggi della Regina della Pace e poi alcuni casi, alcune testimonianze, di due in particolare, ecco, non tratto, anche se le conosco molto bene. Una è quella di Francesco Vajasuso, che è stato liberato da 27 legioni di demoni, perché quando ero editor in PM Mondadori ho curato io questa pubblicazione e ho conosciuto bene Francesco, che ha una storia incredibile, una bellissima testimonianza. E poi ancora Michela fuggita da Satana, forse il testo più duro, ecco, più violento sulla realtà delle sette sataniche, e anche in questo caso mi sono trovato coinvolto nell'opera proprio come editor diversi anni fa. Ma il caso che vorrei proporre questa sera è un altro caso, conosciuto forse per così grazie al film che ne è stato tratto, che apporta il titolo che ho dato questa serata, questa conversazione, L'esorcismo di Emily Rose, un film del 1999 che tratta di un caso reale accaduto più di 20 anni prima in Germania. Ed è un caso che parla di possessione e demoniaca, un caso importante perché ci permette intanto di affrontare il tema e di scoprire che non sono, passatemi l'espressione, questioni da medioevo, ma quanto mai attuali. E poi perché permette di comprendere come dietro a tante sofferenze e tribolazioni spesso ci stiano delle anime vittime o delle, così diciamo, sofferenze che funzionano come potente espiazione e intercessione. E dico subito che viviamo un tempo molto particolare. Chi segue anche altre trasmissioni o interventi che faccio con i libri con Padre Livio, piuttosto che sul mio canale YouTube, sa bene quanto io cerchi di seguire, proporre, condividere, vivere per primo i messaggi della Regina della Pace e quindi come sia ormai attento agli appelli sempre più frequenti che ci esortano a essere pronti, perché siamo, come diceva la Madonna, il messaggio del 2 giugno 2017. Siamo giunti a un tempo che rappresenta un punto di svolta, il tempo dei segreti è sempre più vicino a noi e occorre prepararsi alla prova. E però non dico questo per parlare del tema dei segreti, ma per dire che è vero quanto tanti hanno ripetuto, e anche la Regina della Pace nel suo messaggio del 14 aprile 1982 cominciava dicendo: dovete sapere che Satana esiste. E poi aggiungeva, sapendo che ormai gli resta poco tempo, moltiplica più che mai i suoi sforzi. E per fare cosa? Beh, il demonio ha un piano che è opposto a quello di Maria. Maria vuole portare tutte le anime a Gesù, quindi presentarle a Dio e guidarle alla salvezza. Il demonio invece cerca di guidare il mondo all'autodistruzione e le anime alla perdizione eterna. Allora è chiaro che in questo contesto di due piani di salvezza e perdizione che così si oppongono, la posta in palio è preziosissima perché è il destino eterno delle anime. E in questo contesto il demonio sta quanto mai aumentando la sua attività e i suoi interventi. E allora vorrei proprio partire dal leggere un paio di pagine di questo testo che vi ho proposto, Inferno, la tragica scelta di Rita Sberna. Per prendere spunto proprio da quanto Padre Amort, esorcista paolino, dice sulla differenza tra possessione, vessazione e ossessione diabolica. Leggo così, a pagina 32. Intanto vorrei precisare una realtà molto importante, dice Padre Amort, a cui oggi pochi credono davvero. L'esistenza del demonio. Ecco, quindi vedete che anche per parlare di possessione bisogna subito mettere in chiaro i fondamenti e le premesse. Un tempo sarebbe stato, come si può dire, un dato abbastanza evidente, una verità di fede data per scontata. Oggi non è più così. Prosegue Amort dicendo: egli, il demonio, è il grande nemico di Gesù e il grande nemico di tutti noi. Riporto una frase del Vangelo di Gesù: o si è con me o si è con Satana, non esistono vie di mezzo. Questo è vero, quando pensiamo al nostro cuore come alla stanza più intima della nostra persona, dobbiamo pensare che qualcuno a tavola con noi seduto c'è sempre. Per dire, un padrone di casa c'è sempre, o è il Signore Gesù o è il principe di questo mondo. Non si può stare a metà, non si servono due padroni, ma neppure si può stare in una zona grigia. O si è con Gesù o si è contro di lui. Riguardo alla domanda che lei mi ha posto, dice Amort, che proprio a una domanda di Rita Sberna stava rispondendo, comincio col dire che la forma più forte mediante la quale un demonio può attaccare un uomo nella sua azione straordinaria è la possessione. Il demonio sembra che sia presente nella persona, ma in realtà lui è uno spirito e si serve delle membra della persona per parlare e proprio per mezzo della possessione dimostra una forza soprannaturale. Ecco, qui bisogna precisare che chiaramente essendo spiriti non sono contenuti da quella che è la materia, non c'è un limite spaziale, ma essendo spiriti possono utilizzare anche le membra del corpo umano, dando l'impressione proprio di muovere quasi fosse un burattino questa persona che perde il controllo di sé. E prima di proseguire, voglio però da pagina 34 trarre una digressione molto utile per distinguere due attività demoniache, quella ordinaria e quella straordinaria. Dice Amort, quella che al demonio preme di più è ovviamente quella che spinge l'uomo al peccato, mandando tentazione alla persona, ma il maligno non ha il potere di farci cadere nel peccato, perché cadere nel peccato dipende solo da noi uomini, mediante il libero arbitrio che Dio ci ha dato. Il demonio ha il potere di mandare tentazioni, facendoci negare a volte la stessa presenza di Dio o i comandamenti di Dio. Ad esempio, il comandamento non uccidere viene infranto ogni anno proprio perché nel mondo avvengono oltre 50 milioni di morti solo a causa dell'aborto. Ecco, quindi Amort sta dicendo ci sono due attività del maligno, una ordinaria e una straordinaria. Sicuramente le possessioni, le vessazioni, le infestazioni rientrano nel caso dell'attività straordinaria. L'attività ordinaria è quella invece che vede il maligno agire con le armi dell'inganno e della seduzione per tentare l'uomo al peccato. È in fondo l'attività che ordinariamente compie fin dai tempi del peccato originale che ha visto protagonisti i nostri progenitori. E prosegue ancora Amort dicendo: se non si osservano i comandamenti di Dio, si cade nei lacci del demonio. Il demonio non ci fa commettere il peccato, ma ci tenta, come nel caso dell'aborto, quando porta i medici a dire, ad esempio, che quella vita è solo un grumo di sangue. Ecco, quindi, come Amort mette in evidenza, è forse quella che è l'attività che ordinariamente il demonio svolge, la tentazione, è sicuramente quella che vede protagonisti il maggior numero di persone. L'azione si chiama straordinaria del demonio proprio perché avviene in casi straordinari e straordinaria anche l'intensità. Poi, a mio modo di vedere, per quella che è la mia esperienza, le amicizie con tanti sacerdoti esorcisti, alcuni casi di persone che hanno avuto, come Francesco Vaiasuso, piuttosto che Michela, fuggita da Satana, storie davvero incredibili, testimonianze meravigliose di liberazione e dopo anni di esorcismi, beh, posso dire che in realtà oggi come oggi, forse l'azione del demonio straordinaria è tale per intensità, ma non perché è rara. Mi sembra che la conferma delle parole della regina della pace, quando dice che il demonio raddoppia i suoi sforzi sapendo che gli resta poco tempo, trovino proprio conferma in questo, che si sta moltiplicando l'azione del maligno. E questo dice che probabilmente sa che ormai è venuto il momento della resa dei conti, quando sarà la donna vestita di sole ad affrontare il dragone infernale nel primo combattimento escatologico. Ma torniamo all'azione straordinaria, alla possessione, con la risposta di Padre Amort. La vera possessione, dice, per fortuna è molto rara. Ma quando si tratta di possessione, noi esorcisti assistiamo a degli eventi veramente incredibili. Quindi diciamo che c'è l'attività del demonio, una parte minore di questa attività è l'attività straordinaria, una parte minima di questa attività straordinaria sono le possessioni, le altre sono soprattutto ossessioni e infestazioni oltre alle vessazioni. Ora, le persone sputano e dalla loro bocca escono chiodi, vetri e molti altri oggetti. Dice Amort, ho toccato con mano gli oggetti che si materializzano nell'istante in cui escono dalla bocca dell'esorcizzato. I chiodi a volte sono lunghe 10 centimetri e se la persona avesse fatto i raggi l'attimo prima della preghiera, nello stomaco non sarebbe risultato nulla. A volte le persone rotolano anche per terra. Invece la vessazione e l'ossessione diabolica sono forme di influenza demoniaca minori, che possono dipendere magari dall'imprudenza delle persone, per esempio se si frequentano maghi, cartomanti, sedute spiritiche e sette sataniche. In questo modo ci si espone all'influenza di Satana e si riceve uno di questi mali. Oppure possono dipendere da malefici che la persona riceve. Questo purtroppo è molto frequente, nota Amort. Il maleficio è un male causato a una persona per mezzo del demonio. Ci sono poi persone che sono legate a Satana, medium, cartomanti e maghi, e molte volte alcune ricorrono ad essi. A volte anche con una perfidia personale diabolica lanciano qualche maledizione. Le maledizioni più tremende sono quelle fatte dai genitori o dai parenti stretti, perché di contro natura, no? Pensate a un genitore che maledice un figlio quando è lui che ha dato la vita proprio, no? A questo figlio. E non sono da sottovalutare, dice Amort, anche se sono fatte da altre persone. Quindi possiamo dire che la vessazione, cioè quella forma di attacco, di aggressione fisica che si può subire, l'ossessione, vuol dire le idee, le immagini che si possono così affollare nella mente della persona, e la possessione sono tre diversi tipi di azione straordinaria. Poi ricordiamo anche l'infestazione che sovente riconduciamo alle case infestate a volte diciamo dei fantasmi o dalle anime, ma in realtà sono più che altro dei demoni. Ecco, queste due azioni straordinarie, che possiamo ritenere inferiori alla possessione, hanno sicuramente più casi, no? In cui si manifestano. La possessione è qualcosa di raro. E tuttavia so che anche tra chi magari è all'ascolto ci può essere chi pensa: ma stai parlando di cose da medioevo, cioè sono cose che ormai con i progressi che ha fatto la scienza, la tecnica, soprattutto la medicina, ma anche la psichiatria, ma quanti casi che si pensavano essere possessione non lo sono? Beh, c'è una parte di verità in questo. È vero che con il progresso delle scienze mediche e delle scienze umane si è scoperto che tanti casi che venivano ricondotti al maligno in maniera esclusiva hanno anche una base, dico anche, psicologica, psichiatrica. Sovente sono in realtà soltanto malattie psichiatriche, eppure questo non significa che non vi siano, e molti, casi veri. E il fatto che questo sia un tema molto attuale lo prova proprio il fatto che a Medjugorje, dove appare da 40 anni ormai, la regina della pace in diversi messaggi ha richiamato i suoi figli proprio a credere all'esistenza di Satana. Ne leggo alcuni, tra quelli riportati nel libro di Rita Sberna, a pagina 69 e 70, molto utili. 16 novembre 1981, Satana tenta di imporvi il suo potere. Non lo permettete. Rimanete saldi nella fede, digiunate e pregate. Io sarò sempre accanto a voi a ogni vostro passo. È molto bello questo messaggio perché dice che l'azione del demonio, quella ordinaria, tocca tutti. E qui non è che bisogna correre dall'esorcista o chissà quale forma di scongiuro cercare di applicare, ma si tratta semplicemente di restare saldi nella fede, digiunare e pregare. Anche nel messaggio del 25 febbraio 2021 la Madonna ricordava che preghiera e digiuno possono allontanare le guerre, e anche quella col maligno è una guerra in fondo, benché di ordine spirituale. Poi ancora. Ricordare il messaggio del 15 agosto 1983: state ben attenti a non spegnere in voi lo spirito di preghiera. Satana è arrabbiato con coloro che digiunano e si convertono. Questo ci dà uno stimolo enorme per fare sul serio il digiuno. Immagino quanti all'ascolto dicono: ma io faccio così fatica a fare 2 giorni di digiuno a settimana, come chiede la Madonna, pane e acqua. Guarda, la Madonna ha sempre detto che chi non può farlo sa a cos'altro potrebbe rinunciare, però pensare che quel tuo digiuno infastidisce così tanto il demonio dovrebbe stimolarti. Perché? Ma non perché ci interessi qualcosa se il demonio prova fastidio o meno, ma perché questa è una indiretta conferma di come stiamo facendo qualcosa di buono per la salvezza della nostra anima. Diversamente il demonio non avrebbe di che preoccuparsi. E poi ancora. Il messaggio del 30 marzo 1985: quando siete umili, quando pregate fervidamente, quando amate il vostro prossimo, Satana non può neanche avvicinarsi a voi. Beh, umiltà, preghiera e carità evidentemente fa tutto rima con santità. Quanto più ci si incammina verso la santità che il Signore ha pensato per noi, e tanto più evidentemente diventa semplice respingere il demonio. Ed è importante pensare anche alla potenza della preghiera nel resistere agli assalti del maligno. Cito ancora questo messaggio che trovo a pagina 71 del 25 giugno 1985. Col rosario, la Madonna si sta rivolgendo ai sacerdoti, col rosario vincerete tutte le difficoltà che Satana adesso vuol causare alla Chiesa Cattolica. Pregate il rosario, tutti i sacerdoti, dedicate tempo al rosario. Ecco, è bello perché quante volte noi ci limitiamo a fare le tavole rotonde sui problemi della Chiesa, sui consigli che daremmo al Papa o su come si potrebbe migliorare la vita di fede della nostra parrocchia. dice semplicemente prendete il rosario. Se la Chiesa è nella prova, e lo è in questo momento in modo particolare, non servono tanto le opinioni e le tavole rotonde da parte nostra, quanto piuttosto la preghiera, e così pure dice la Madonna da parte dei sacerdoti, cioè bisogna ritornare a questa preghiera del rosario, sapendo che, ha detto in un altro messaggio la Madonna Medjugorje, il rosario è un segno forte del fatto che voi appartenete a me, è un segno per il demonio. Ecco, io non mi vergogno di condividere con voi questo particolare personale, semplice ma per me significativo. Io dormo sempre la notte con il rosario al polso, da quando ho letto questo messaggio di Maria che dice che il rosario è un segno per Satana che appartenete a me. E allora, anche se il corpo riposa, il cuore veglia con Cristo, come siamo abituati a pregare nella Compieta, e questo per me passa anche attraverso un segno sensibile che ricorda a me anzitutto a chi appartengo. E adesso veniamo al caso di questa sera, che presenterò brevemente, ma è più che altro lo spunto per incuriosire gli ascoltatori e per così invitarvi ad approfondire il tema. A pagina 109 di questo libro, Inferno, la tragica scelta, ecco che Rita Sberna riporta quello che definisce l'esorcismo più clamoroso della storia, quello di Emily Rose. E c'è una premessa, ecco, da fare che ricorda bene. Nei secoli, ecco, della storia bimillenaria della Chiesa sono diversi i casi e gli episodi di possessione diabolica e alcuni hanno anche lasciato il segno, anche in tempi recenti, no? In una sorta di cronaca nera. Pensiamo ad esempio al film L'Esorcista. Tanti avranno in mente le scene di quel film che sono state amplificate, volutamente sproporzionate, ecco, rispetto alla realtà. Comunque sia, dando l'idea, scrive Rita, di quanto il male possa manifestare anche visivamente se stesso agli occhi increduli dell'uomo. Le storie di possessione e gli esorcismi non sono pura fantasia. Sono esistite e continuano ad esistere. Il mio modesto consiglio, dice l'autrice, è quello di non avere paura, ma anzi di prenderne atto. A volte questo ci mette in guardia dal nemico e dalle sue trappole e ci aiuta a conoscere la sofferenza di quelle povere anime che, sottoposte a un esorcismo, sperimentano nella loro anima una grande sofferenza paragonabile alle pene dell'inferno interiore. Ecco, è importante perché uno potrebbe dire, allora qual è lo scopo di parlare di queste cose? Ma non certo per fare terrorismo psicologico o diffondere la paura o le suggestioni che poi impediscono di dormire serenamente la notte, ma neanche per idea. Però bisogna sapere se la Madonna ha detto nel messaggio del 14 aprile 1982, dovete sapere che Satana esiste, e perché di queste cose, con la prudenza, la misura e la scienza teologica adeguate, è giusto parlarne. È giusto parlarne perché intanto ci rendiamo conto di come il demonio può agire nei nostri confronti, quindi cerchiamo di essere prudenti e preparati noi stessi per difenderci. Poi è giusto parlarne perché così ci possiamo, come si può dire, accorgere che ci sono tante persone sofferenti, tante persone che vivono il dramma dell'azione straordinaria del demonio su di loro, tante persone possedute, vessate, tribolate, e noi possiamo pregare per queste persone. E poi possiamo ancora capire che queste persone sono aiutate da tanti santi esorcisti che si sacrificano giorno dopo giorno per fare preghiere di liberazione e di esorcismo su queste anime ossesse dal demonio. Ecco, possiamo allora dire che la consapevolezza per noi, la preghiera per gli altri e la preghiera per i sacerdoti sono già ottime motivazioni per conoscere questa materia. La storia dell'esorcismo che andiamo a esaminare adesso risale agli anni del pontificato di Paolo VI e accadde in Germania, un paese che venne proprio sconvolto da questi avvenimenti. La protagonista è Annalise Michel, è una ragazza tedesca. Poi il film del 99 ha romanzato la vicenda, l'ha ambientata in America, ha chiamato la protagonista Emily Rose perché era più facile anche da ricordare. Tra l'altro un film fatto veramente molto bene. E forse l'unico che mi sentirei di proporre dopo l'esorcista stesso, ma ben più dell'esorcista classico, come documento molto attendibile, anche se i registi non mi sembrano avere particolari agganci con la realtà della fede vissuta e praticata, di fatto si vede che chi ha fatto questo film sa di cosa sta parlando, si è documentato. Non è difficile perché in rete ci sono tanti file audio e documenti scritti relativi a questo caso, però si vede che è fatto in maniera molto obiettiva, molto equilibrata. Io mi interesso di demonologia e ovviamente anche per esperienza, ecco, di vita vissuta, accompagnando persone nell'ambito delle preghiere, incontrando soprattutto esorcisti che hanno reso la loro testimonianza, ma penso a Padre Amort su tutti o a Don Giovanni Zorzoli, ecco, che ho potuto frequentare per diversi anni. Quante storie ho sentito dalla loro bocca, quante testimonianze, e mi accorgo che queste storie fanno parte del nostro presente e vanno conosciute per comprendere, lo ripeto, come il demonio agisca e quindi riuscire a prepararsi, per capire che tante persone sofferenti aspettano la nostra preghiera e tanti sacerdoti esorcisti vanno aiutati. E direi proprio che questo film ha potuto testimoniare, a mio parere, come si può essere obiettivi, mentre tante altre pellicole sono invece fuorvianti, mettono in evidenza più l'aspetto magari esoterico o spiritista di questa dinamica, non facendo caso a come ci sia anzitutto l'impiego della preghiera, la potenza di Dio che libera, e soprattutto ci siano dei ministri incaricati da Dio di operare questi esorcismi. Ma torniamo alla vicenda di cui stiamo parlando. Diciamo questa ragazza Annalise Michel, che morì giovanissima ad appena 24 anni nel 1976. Gli esorcisti che si erano occupati del suo caso furono condannati in tribunale perché all'epoca, a metà degli anni 70, fatti relativi a possessioni demoniache e quant'altro erano considerate ciarlataneria. La ragazza, annota Rita Sberna, parlava con voci maschili e diverse, manifestava una forza sovrumana, parlava lingue a lei sconosciute come l'aramaico antico. Aveva un'avversione verso ogni tipo di oggetto sacro, tant'è che li distruggeva, aveva piaghe incurabili nei punti della passione di Gesù. Tutti elementi che facevano pensare a una vera e propria possessione. Sono i segni esterni, la forza energumena, il parlare lingue sconosciute, l'avversione del sacro. E sono segni che perlomeno costituiscono forti indizi. La morte di Annalisa avvenne nel giorno esatto che lei aveva predetto. In internet si trovano, lo dicevo già, molte registrazioni, alcune io in realtà le sconsiglio perché sono proprio reali, si ascoltano veramente le voci di questi demoni durante le preghiere svolte in presenza di Annalisa, e al di là poi, ecco, del rispetto di questa persona che è morta, e c'è anche il fatto che è bene, ecco, non riportare, ecco, troppo in auge la presenza del demonio, ed evitare anche forse di fare tutti questi riferimenti che possono suscitare più che altro la curiosità. Io direi tutto quello che riguarda casi di possessione forse non dovrebbe essere così pubblicizzato proprio a livello di documenti di prima mano, fatemi dire. Un conto è scriverne, un conto è mettere delle registrazioni, e tuttavia anche questi hanno contribuito a sollevare, ecco, come si può dire, un po' il velo sul silenzio che per alcuni anni aveva toccato questa storia. Il tribunale perché ha condannato gli esorcisti che l'avevano seguita? Perché si era fidato esclusivamente del parere dei medici e degli psichiatri, che avevano giudicato la ragazza semplicemente affetta da epilessia, per quanto da una forma gravissima. Per obbedienza al vescovo locale, che voleva escludere ogni forma di malefisico, quindi essere sicuro che non fosse un caso puramente riconducibile alla sfera medica, la ragazza prendeva lo stesso i farmaci per l'epilessia, anche se il male era di natura spirituale e non aveva benefici. Questo è un punto importante perché significa che la nostra vita va sempre su due binari, quello naturale e quello soprannaturale, e soprattutto che questi fenomeni spirituali entrano in gioco nell'orizzonte di un intreccio tra la psiche e lo spirito. È difficile dire, è tutto una cosa o tutta un'altra, è soltanto questione psichica, è soltanto questione spirituale. Sovente, per quella che è la mia piccola esperienza, per quelle che sono le mie letture, i miei incontri con esorcisti, posso dire che c'è sovente un intreccio. C'è qualche dato fisico-psichico che diventa un po' come una base su cui il demonio poi innesta la propria azione. E la ragazza quindi continua ad associare agli esorcismi le cure mediche e nonostante questo i genitori verranno poi condannati con l'accusa di abbandono di incapace perché di fatto Annalisa morirà di denutrizione arrivando a pesare appena 30 kg. Un'esperienza drammatica, sconvolgente da cui si è proprio ricavato il film L'esorcismo di Emily Rose del 1999. Vediamo un po' più da vicino la storia, ecco, in breve. Annalisa è la primogenita di quattro figli di un falegname bavarese. Leggo a pagina 110 che è nata a Leipzig nel 1952, aveva l'hobby del tennis e del pianoforte. La famiglia era cattolica e fin da piccola aveva l'abitudine di pregare e di recitare il rosario. All'età di appena 16 anni, nel 1968, ha il primo attacco epilettico e viene ricoverata a Würzburg, dove viene curata. Tutto sembra rientrato finché nel 70 si ammala, questa volta di tubercolosi, e viene nuovamente ricoverata. Tornata a casa, la stessa notte del rientro dal ricovero ospedaliero, comincia a vedere volti demoniaci a appena 18 anni. Si ritrova con il torace e le mani deformati, sente un orribile fetore. Non può muoversi né parlare, quindi la puzza, a volte di zolfo che si sente, le paralisi, le sentirsi bloccata, sono tutti sintomi tipici. Poteva essere sempre una forma di epilessia, poteva essere una forma magari grave, non conosciuta, quindi continua ad assumere i farmaci specifici, anche se questi non portano nessun beneficio. Passa un po' di tempo e nel 1973 la famiglia si reca in pellegrinaggio a San Damiano Piacentino, dove si diceva che nel 1961 la Madonna fosse apparsa a Rosa Quattrini. La Chiesa non ha riconosciuto ufficialmente queste apparizioni, ma recentemente si sono fatte sempre più così aperte le posizioni della Chiesa, notando i frutti spirituali dei pellegrini che numerosi continuano ad accorrere, sia per vedere il famoso pero che è fiorito miracolosamente, sia per l'acqua scaturita dalla sorgente miracolosa. E arrivata sul luogo, quindi in Italia nel 1973 a San Damiano Piacentino, Annalisa non riesce nemmeno a entrare nella cappella perché avendo avversione per il sacro, se quello era un luogo benedetto da Dio e con l'apparizione della Vergine si comprende bene come volesse tenersi ben lontano il demone che poteva essere dentro di lei. Nello stesso anno, Annalise, il 73, finisce il liceo e si iscrive a pedagogia a Würzburg. Lì si innamora di uno studente, Peter Himsel, che ricambia il suo amore al punto da starle accanto anche quando va a crisi che sembravano sfiorare la follia. E questo è molto bello come riferimento perché l'amore che si promette di fronte a Dio nel giorno del matrimonio è l'amore nella buona, nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia, nella gioia e nel dolore. E questa cosa la capisce benissimo chi vive l'esperienza di essere sposato o fidanzato con una persona che vive questo tipo di problematiche. Prima citavo l'esperienza di Francesco Vaiasuso, che proprio con la moglie Daniela ha sperimentato l'efficacia della potenza del sacramento del matrimonio anche in ordine alla lotta spirituale che si ingaggia contro i nemici, contro il maligno, contro le potenze delle tenebre. In questo caso è molto bello perché proprio questa presenza così vicina sosterrà tanto Annalise durante la sua prova spirituale. Una domenica, mentre i due fidanzati passeggiavano in campagna, Annalise ebbe un attacco dolorosissimo del suo male, una crisi. Di colpo, però, il suo viso si illuminò. Nel male più profondo, nell'acme di questa crisi, il viso si illumina e sembrava che parlasse con qualcuno. Quando la visione sparì, il dolore era scomparso e Annalisa rivelò a Peter di aver visto la Madonna. Ecco, questa apparizione della Madonna è, come si può dire, il colpo di scena del film e viene rivelata soltanto alla fine. Si capisce che Annalisa ha avuto una visione. La madre di Dio ha chiesto ad Annalisa se accettava di farsi carico di tante anime che rischiavano la dannazione e le lasciò 3 giorni per pensarci. Sarà poi il fidanzato a testimoniare questa cosa dopo la morte della ragazza. In breve tempo le vessazioni demoniache si moltiplicano e si presentano come una forma di espiazione riparatoria che Annalise deve sopportare in virtù di quei peccatori per i quali chiedeva la conversione. Nel film si vede come accetta di stare in questo corpo ormai posseduto dal demonio, perché le vessazioni col tempo diventeranno vere e proprie possessioni, perché dice: oggi la gente non crede più. Ma se vedranno il male, come potranno dubitare che Dio esiste? E a un certo punto il caso appunto si aggrava e lei stessa si rivolge al suo confessore, che si rende conto della serietà del caso e chiede al vescovo, all'ordinario del luogo, il permesso di procedere con l'esorcismo. Qui ci sono tutte le premesse perché le cose vadano bene, perché quando il sacerdote non fa di testa propria, ma chiede il permesso al vescovo, agisce in comunione con la Chiesa e questo è quanto di più teme il demonio, perché è diabolos, colui che si mette di traverso, colui che divide, teme la comunione e l'unità. Ecco perché è una buona garanzia quando a volte mi si dice: ma cosa deve essere anzitutto un buon esorcista? Beh, deve essere anzitutto in comunione col vescovo e obbediente al suo incarico, al suo mandato. E diciamo che inizialmente il vescovo consiglia di continuare con le cure, perché, come ricordavo prima, vuole essere sicuro che non sia semplicemente un caso di epilessia. E poi autorizza il confessore, coadiuvato da un gesuita, con, come si può dire, con un parere, ecco, positivo anche da parte di questo gesuita, autorizza il confessore a praticare esorcismi, ma gli affianca anche un altro personaggio, un ex missionario, Arnold Renz. Quindi Ernst Alt, che è il confessore, più questo Arnold Renz, si trovano per fare gli esorcismi. Questi due sacerdoti eseguono 3 esorcismi a settimana, dal 24 settembre 1975 al 30 giugno 1976. Si tratta di un periodo di quasi di poco più di 9 mesi, e Annalisa ovviamente soffriva terribilmente. Ma se dopo l'esorcismo poco poco si riprendeva, appena aveva forza si metteva a pregare. Fino a quel momento gli esorcismi non avevano avuto effetto, c'è un piccolo momento di pausa, Annalise consegue il titolo di studio, ma questa gioia, ecco, ha un po' più una breve durata, perché le manifestazioni demoniache ricominciano peggio di prima. E cosa capita durante queste manifestazioni? Che ovviamente il rituale è quello antico. E durante questo rituale è previsto che il sacerdote chieda al demonio di dire il proprio nome e si presentano diversi demoni. Uno dice di essere quello che fu in Giuda, un altro quello che era in Caino, un altro quello che era in Nerone. Quindi abbiamo, diciamo, dei personaggi storici, un altro ancora in Hitler. Abbiamo cioè 4 demoni che affermano di essere stati quelli che più hanno inciso sulle drammatiche vicende di Giuda, Caino, Nerone e Hitler, tutti personaggi dei quali, a parte Giuda, per il quale Gesù ha pronunciato parole pesantissime, dicendo nel Vangelo meglio per lui che non fosse mai nato e dicendo ancora che era il figlio della perdizione, no? A parte Giuda, del quale possiamo dire e sembra essere destinato all'inferno per come ne parla Gesù, degli altri possiamo anche rimanere in una fase di dubbio, perché la Chiesa ci insegna che non dobbiamo di nessuno presumere che sia condannato, perché Dio solo legge i cuori, e però sono casi, capite bene, clamorosi: Caino, Nerone e Hitler, i demoni che avevano occupato le anime di questi protagonisti della storia del male, sono adesso in Annalisa, insieme a quello di al demone che era in Giuda. E poi ancora ci sono 2 demoni veri e propri, cioè Belial e Legione, che è quel demonio multiplo esorcizzato da Gesù a Gerasa. E poi un nome particolare, cioè Valentin Fleischmann, e questo non si sapeva chi fosse. Fatte alcune ricerche, si scoprì che era un sacerdote bavarese che era stato condannato nel 1575, quindi 400 anni prima, era donnaiolo ubriacone e condannato per aggressione e omicidio. E infine l'ultimo diavolo che disse di essere addirittura Lucifero, quindi c'era proprio lui in persona. Annalisa patisce queste presenze demoniache, oltre che per gli stati allucinatori, per le voci, per le violenze, perché soprattutto gli impediscono di mangiare e di dormire, e muore proprio per denutrizione. Muore il 1° luglio, il giorno prima ha ricevuto ancora un esorcismo, ma che si è rivelato inutile, e questa è tutta la scena su cui si apre all'inizio il film L'esorcismo di Emily Rose. E già nell'aprile 1976, a distanza di più di 2 mesi, Annalise riceve la rivelazione e la predice della sua morte il giorno esatto. La Madonna le è dunque apparsa. Questa è un po', la chiave di volta per comprendere la vicenda di questa ragazza, che acconsente ad espiare i peccati di tanti giovani tedeschi. Pensiamo che sugli anni di quella generazione rovinata dalla droga, soprattutto dall'eroina, che è ben testimoniata a livello autobiografico dal libro Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, dove si legge la storia di questa Christiane che, giovanissima, si dà alla droga, alla prostituzione, e solleva veramente un velo su un mondo di corruzione, di depravazione, di peccato, qual era quello della Germania dei giovani e degli adolescenti dell'epoca. Tra l'altro, essendo moltissimi minorenni, ci furono reazioni davvero sconcertate da parte dell'opinione pubblica a leggere questa intervista uscita come libro nel 78. Forse anche per giovani come questi, Annalise decide di immolarsi, e poi anche per i sacerdoti. E agli esorcisti che chiedono, no, ai demoni perché non se ne vadano, questi rispondono che non possono, perché una forza più potente li trattiene lì. Allora si intese questa come una conferma indiretta dell'offerta che aveva fatto proprio Annalisa. E questo caso ritorna alla luce soltanto nel 1997. E diciamo che per capirne la portata bisogna ricordare uno sfogo che ebbe col suo padre spirituale, il padre Alt, quando Annalise, poco prima della fine, disse: "Ho voluto soffrire per altre persone, di modo che non finiscano all'inferno." Questo è bellissimo, perché dice: la santità di questa ragazza non sta tanto e solo in una vita ordinaria fatta di impegno, studio e preghiera, ma anzitutto nell'essersi offerta come anima vittima, nell'essersi immolata perché tanti, vedendo che il male esiste, potessero credere anche a Dio, potessero evitare l'inferno. E dice proprio questo: ho voluto soffrire per altre persone di modo che non finiscano all'inferno, ma non avrei mai pensato che sarebbe stato così spaventoso e così orribile. Ecco, non dice: l'avessi saputo non mi sarei offerta, però dice: è stato veramente terribile. E concludo citando alcune frasi di quelle che sono state trascritte dagli esorcismi così numerosi, 3 a settimana per 9 mesi, quindi più di un centinaio, praticati su Annalise Michel. Anzitutto Lucifero ha avuto modo di dire: ci sono alcuni che non credono nemmeno che io esista. Questi sono i miei più cari. Beh, anche Baudelaire diceva che l'astuzia più grande del demonio è far credere che non esiste, in maniera tale che può agire indisturbato, e il demonio stesso, Lucifero, afferma che quelli che gli sono più cari sono quelli che non credono che lui esista. Ma questo mi fa venire in mente anche Santa Faustina Kowalska, quando, dopo aver avuto la visione dell'inferno, che pure ritrovate in questo bel libro, disse: la cosa che mi stupì di più è che la maggior parte di quelli che sono all'inferno sono anime che non credevano all'esistenza dell'inferno. E poi ancora c'è un messaggio dove uno dei demoni, quello che aveva occupato l'anima di Fleischmann, il sacerdote sacrilego che era stato condannato per aggressione, dice: gli angeli custodi sono giorno e notte accanto a voi o dietro di voi affinché seguiate il Salvatore. Noi, come dire, noi i demoni vi seguiamo passo passo, Noi siamo spiriti. Oggi la gente non crede agli angeli custodi. Questi sono i miei nemici, io li odio. Ecco, pensare, no? Quanto bisognerebbe riprendere la devozione all'angelo custode, sapendo che se è custode, evidentemente ci protegge anche dagli assalti del male. E poi ancora in un messaggio del 10 ottobre 85, il demonio che era in Nerone disse: l'aborto è omicidio e è sempre uguale, in qualsiasi mese venga compiuto. Questa è una parola forte che forse oggi non sei più il coraggio di dire. Oggi, in cui si dice che il divorzio e l'aborto sono i segni di una civiltà, e anche l'Europa sembra guardare a queste pratiche che di fatto sanciscono come legale, come diritto della donna, un vero e proprio omicidio, e che di fatto sono poi la tomba della famiglia, perché il divorzio abbreviato è quello che permette alle coppie di separarsi ancora più velocemente, con buona pace di chi poi si trova a vederne le conseguenze nelle persone stesse, che sono poi vittime della separazione, e anche nei figli che, poverini, perdono questi riferimenti genitoriali in quella comunione così profonda che è necessaria per la loro crescita armonica. E poi ancora, si parla dei sacerdoti che non indossano la talare, dice il demonio che era in Giuda: quella cosa che lei indossa, cioè la veste talare, la maggior parte non l'indossa più. Questi modernisti sulla mia opera e ormai mi appartengono tutti. Interessante questo riferimento al modernismo, perché sappiamo bene com'è il tentativo di eliminare ogni riferimento alla rivelazione divina e ridurre la religione a una costruzione umana. Nasce a fine 800, ma ahimè oggi è più vivo che mai. Poi ancora si parla delle religiose, dei monasteri, dice che stanno davanti alla televisione, non pregano abbastanza, non si inginocchiano. E infine dice Lucifero: l'acqua santa deve di nuovo entrare nelle case e anche il crocifisso deve tornare al suo posto di onore. E è interessante l'ultimo riferimento: se avessero un'idea del rosario. Si sta riferendo ai parroci, perché esso, il rosario, è un'arma troppo forte contro Satana e contro di noi. Io lo devo dire purtroppo, ma molti non ci credono. Ecco, così posso concludere la testimonianza su questa storia, della quale potremmo dire veramente ancora tanto, ma io rimando sicuramente al libro che ho presentato questa sera di Rita Sberna, Inferno, la tragica scelta, edizioni Segno con prefazione di Monsignor Giovanni d'Ercole, ma poi soprattutto rimando, diciamo, al desiderio di approfondimento che sicuramente c'è in ognuno di voi per raggiungere lo scopo che ci prefiggiamo con queste conversazioni, parlare di quegli argomenti, in questo caso il demonio, la possessione, che ci spingono a vivere in maniera più consapevole la nostra fede e, sapendo che esiste l'inferno, a desiderare ancora più intensamente il paradiso. Ecco, ci fermiamo qui per qualche minuto, cari amici, ci ritroviamo tra poco dopo una pausa musicale con le vostre domande che vi prego questa sera in modo particolare siano brevi e in tema con quanto trattato. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, Buonasera. buonasera. Mi chiamo Giovanni e chiamo da Verona. Intanto grazie al Signore per il dono che le ha dato e grazie a lei perché usa bene il dono che Dio le ha dato. E una considerazione e domanda, è una domanda che mi arrovella già da tanto tempo. Come mai, com'è possibile che oggi, soprattutto oggi nella Chiesa, ci sia una grave carenza proprio di credere nell'opera che Satana nell'opera di Satana. Diceva, se non mi ricordo male, Paolo VI, che chi non crede nell'opera di Satana è fuori dalla Chiesa. Ecco, questo penso anche per me San Gabriele Amort era una sottolineatura che faceva spesso. E mi domando appunto come mai, come possa essere possibile che tanti vescovi non credano in questa realtà e facciano molta fatica a designare degli esorcisti. Grazie, intanto buona terza domenica di Quaresima a lei e agli ascoltatori. Grazie caro Giovanni per il tuo intervento, come sempre molto stimolante. E io appartengo a una diocesi in cui non c'è da tanti anni un esorcista. Chiaramente il primo esorcista della diocesi è sempre il vescovo, l'ordinario del luogo, ma ho constatato in tutti questi anni la difficoltà da parte di tanti sacerdoti o vescovi a credere realmente all'azione del maligno. Ma certo, ci sono casi in cui sicuramente sono problematiche mediche o psicologiche o psichiatriche. Bisogna fare un discernimento attento, prudente. La Chiesa ha degli strumenti che un tempo non possedeva. Questo non lo nego e anzi lo affermo io per primo. Tuttavia, il demonio continua ad agire più che mai. E penso che il maligno stia riuscendo nel suo intento, quello di mimetizzarsi sempre meglio. Quando con Padre Livio presentiamo quello che è l'agire dell'Anticristo, ricorriamo a quel capitolo 13 dell'Apocalisse in cui si presentano le due bestie che incarnano le due armi del demonio, poi la violenza, la furia omicida della bestia e la seduzione, l'inganno e la menzogna del falso profeta. Possiamo dire che più che la violenza, oggi usa la menzogna il demonio. In fondo il nostro peccato originale discende da lì, perché se Eva non si fosse messa a dialogare col serpente, che mentendo l'ha fatta cadere in un tranello, oggi racconteremmo un'altra storia. Poi c'è stata anche la violenza, sicuramente, l'omicidio di Caino ai danni di Abele, suo fratello, che grida vendetta al cospetto di Dio, è il capitolo 4 della Genesi, ma c'è già stato il peccato originale, c'è già stata la caduta dei progenitori per questa menzogna, che attraverso il canale del modernismo di ritorno, il modernismo contemporaneo, e così si prepara, penso, a infettare tanto e tanto pensiero cattolico. Quando proprio Paolo VI, che citavi Giovanni nella sua amara constatazione di vedere come il fumo di Satana fosse entrato nel Tempio di Dio, intendeva dire un pensiero non cattolico nella dottrina cattolica. Io penso che questo pensiero non cattolico nella dottrina cattolica sia anzitutto negare l'esistenza del demonio, e la conseguenza è drammatica, perché si nega il valore anche del sacrificio di Cristo, che è morto in croce, questo è il catechismo, per liberarci dal peccato, dalla morte e dal maligno. E guarda caso, di che cosa non si parla oggi tanto frequentemente? Non si parla di morte, di peccato e di demonio, perché si perde poi l'audience anche in chiesa, anche dai pulpiti. E allora bisogna ritornare ad avere presente questo. E voglio dire, concludendo, una risposta che sarebbe ampliabile con ancora tanto tanto, perché il demonio può fare questo? Ma 2 o 3 anni fa ho curato un libro per Papa Francesco, intitolato Il diavolo c'è. È una sua affermazione dei primi tempi del pontificato. Tante volte in questi anni di pontificato Papa Francesco ha parlato del diavolo, di come agisce dentro e fuori la Chiesa, ed è stato un richiamo salutare, perché se ne parlava poco. E alla fine ricorda, come insegna la Chiesa, che il demonio non può nulla se non per permissione divina. Se dobbiamo arrivare a vivere la resurrezione della Pasqua, la domenica del Cristo che risorge sulle orme del Maestro, come lui dobbiamo vivere anche la passione e la morte in croce. E allora la Chiesa oggi vive esattamente questa prova, messa proprio sotto attacco dal demonio, che prima ancora di attaccarla frontalmente, come pure fa, cerca di sedurla con la menzogna, facendo credere che non esiste, ma per poter così agire più indisturbato. E più che cercare, ecco, ragioni magari ancora più profonde, che forse sfuggono alla nostra, ecco, umana conoscenza, penso che sia fondamentale invece richiamare un nostro dovere, cioè quello di ricorrere il più possibile alla preghiera di intercessione, da una parte per le persone tribolate dal demonio, dall'altra per i pastori, cioè i vescovi e i sacerdoti, perché sempre più siano consapevoli della responsabilità e dell'importanza che hanno nel condurre nel nome di Cristo questa buona battaglia contro il demonio. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Carlo da Verona. Molte volte Benvenuto. grazie, molte volte in Radio Maria si sente l'affermazione Satana regna, anche spesso da parte di Padre Livio. Dopodiché, subito dopo la recita del rosario di mezzanotte, subentra una preghiera rivolta all'Arcangelo San Michele, che dice: tu, principe della milizia celeste, incatena Satana e tutti gli spiriti maligni che vogliono far perdere le anime. A questo punto sorge, forse un po' ingenuamente, la domanda: ma questa milizia celeste non sembra essere così efficiente? È un'ottima domanda e non è affatto una provocazione. È una domanda che coglie nel segno, perché se fosse semplicemente una battaglia che si gioca a livello di alte sfere, di sfere celesti, non ci sarebbe dubbio su chi vince. Perché l'Apocalisse ci dice chiaramente che Michele e i suoi angeli hanno vinto e non ci fu più posto in cielo per Satana, che venne precipitato sulla terra. Quello è il problema, che il demonio continua la sua lotta non potendo colpire il creatore, perché è l'onnipotente, e avendo perso contro San Michele Arcangelo e gli angeli fedeli a Dio, la continua contro gli uomini. E non sempre gli uomini sono disposti ad accogliere tutti gli aiuti che il Signore offre loro. Il demonio non può vincerci se siamo con Cristo, perché non può forzare la nostra libera adesione alla grazia, non può sottrarci a quegli aiuti che il Signore ci dona a piene mani. Ricordo un passaggio molto forte dell'epistolario di Padre Pio, che è veramente un manuale di lotta spirituale contro il demonio, in particolare il primo dei quattro volumi dell'epistolario, in cui Padre Pio, giovanissimo, già sacerdote, ricorda quando era in battaglia nelle casette di Pietrelcina, in quelle camere delle varie case dove ha vissuto, dove sono stato diverse volte in pellegrinaggio a fare visita, spesso pregando con grande beneficio in quei luoghi proprio per le anime più tribolate che a me si rivolgevano, e vedendo come Padre Pio continua ancora ad oggi ad intercedere tantissimo per queste persone tribolate e vessate dal demonio. E beh, ricordo che Padre Pio scriveva in questa lettera: mi vedevo ormai perso, la mente affollata da pensieri di disperazione e di bestemmia, Padre Pio, e con l'ultima punta della volontà ancora libera dicevo però: Gesù, aiutami. E Gesù veniva. Ecco, mi ha sempre colpito questo ritratto, no, di un momento di battaglia che forse sembra meno significativo di quando leggiamo dei rumori di catene, dei latrati del cane, delle battiture che il frate subiva, perché diamo spazio alle cose più sensazionali. Ma qui pensare che la sua mente era invasa, pensieri di bestemmia, di disperazione. Ma quante volte anche noi siamo preda di questa confusione? Io sono veramente convinto che l'azione straordinaria del demonio sia oggi sempre più ordinaria, perché sempre più persone la sperimentano. Quando faccio qualche incontro anche con i giovani e mi trovo davanti 20-30 adolescenti, 18-19 anni, racconto loro di queste tematiche e poi provo a dire: non alzate la mano, ecco, ma siete 40? Io sono convinto che 7-8 di voi vivono l'esperienza che adesso vi racconto. E faccio questo esempio: immaginiamo che molti di voi non vadano più a messa da chissà quanti anni, non si confessino magari dal tempo della cresima, ma io sono convinto che per qualcuno di voi accade questo: quando entrate in chiesa per un matrimonio, un funerale, un battesimo, la testa immediatamente sente delle bestemmie, voi neanche bestemmiate, e vedo qualcuno che sbarra gli occhi, come dire: ma come fa a sapere che a me capita così? E poi dopo l'incontro mi vengono a parlare, e le proporzioni sono queste, 7, 8, 9 su una quarantina, cioè è come dire uno su 5, i numeri stanno crescendo, e questa è un po' l'azione reale. È l'uomo che è sotto attacco, ed è per quello che, mentre il principe della milizia celeste può incatenare Satana, a noi è chiesto di resistere, intanto che questa battaglia si va consumando verso la fine dei tempi. Resistere significa fare la nostra parte perché Cristo possa vincere in noi. Quando la Madonna dice Satana regna, è un'espressione fortissima. Non significa ha vinto, significa che è il principe di questo mondo, che ha potere su questo mondo, che apparentemente arriverà alla vittoria. Quando pensiamo a quel grande romanzo profetico che è Il padrone del mondo di Robert Hugh Benson, dobbiamo dire che anche lì sul finire sembra che ormai l'anticristo stia per vincere, quando torna il Signore, è il momento della la parusia della gloria e sconfigge le armate delle tenebre. Nel tempo dei segreti, che è il primo dei due combattimenti escatologici con cui si completerà quella che è la storia del mondo, si vedrà che il demonio sta per vincere, ma non sarà così. Ma questa vicenda noi l'abbiamo già vissuta, perché il demonio, ai piedi della croce, guardando Cristo che veniva crocifisso, trionfava, pensava di avere vinto e non capiva che in realtà quell'apparente trionfo era la sua sconfitta. È quello che sta accadendo anche adesso. Ecco perché non credo che ci sia una contraddizione nelle due preghiere, ed ecco perché mi piace ricordare quello che la Madonna a Medjugorje ha detto proprio nel messaggio del 14 aprile 1982, quando ci ricordava: dovete sapere che Satana esiste. Poi diceva: Satana ha chiesto a Dio il permesso di tentare la Chiesa per un secolo. Questo secolo in cui vivete era il ventesimo, e sotto il potere di Satana. Possiamo dire che il secolo che va da Fatima a Medjugorje sia il secolo del massimo scatenamento satanico. È un secolo in cui la Chiesa è messa alla prova per divina permissione. Però diceva proprio: Dio ha permesso a Satana di tentare la Chiesa, ma ha aggiunto: non la distruggerai. Ecco, noi siamo certi che la vittoria finale è di Cristo, ma intanto c'è questo tempo di prova in cui è fondamentale riuscire a resistere e sapere che ci sarà questa apparenza di vittoria fino a che non scenderà in campo. Prima la regina della pace, come donna vestita di sole che sconfigge il dragone infernale, poi Gesù stesso che vince il maligno e lo caccia, come dice l'Apocalisse, nello stagno di fuoco e di zolfo per i secoli dei secoli. In mezzo c'è un tempo di pace, e in questo tempo, dice quel messaggio del 14 aprile 1982, il potere di Satana sarà infranto. Che cosa vuol dire? Che Satana sarà legato, sarà come un cane che può abbaiare furiosamente, quindi spaventare, ma non potrà più agire come sta invece agendo adesso. Questo è il tempo di fargli guerra, questo è il tempo di ricorrere a quelle armi che la Madonna recentemente ha indicato come le più efficaci per allontanare anche le guerre, cioè la preghiera e il digiuno. Ecco, mi dicono dalla regia giustamente che il nostro tempo è terminato. Sono argomenti che prendono perché, essendo di estrema attualità, ci si fa coinvolgere. Poi, grazie anche alle domande che ricevo. Concludo quindi ringraziando tutti voi che siete stati all'ascolto, invitandovi a essere sempre fedeli alla preghiera, anche alle preghiere che la Chiesa ci consegna per essere protetti, proprio invocando l'aiuto di San Michele Arcangelo, principe della milizia celeste, quella preghiera che proprio Papa Francesco ha rimesso in auge, chiedendo di ricordarla al termine della messa, al termine del Santo Rosario. Quindi facciamo la nostra parte per questa buona battaglia e preghiamo, offrendo le grandi e piccole sofferenze di ogni giorno, soprattutto per il Santo Padre, per i vescovi, per tutti i sacerdoti, per le persone più tribolate e sofferenti nel corpo e nello spirito, soprattutto quelle che stanno soffrendo per possessioni che ancora non si sono risolte. Ecco, proprio pregando per la loro liberazione, perché ricevano sostegno e consolazione. Preghiamo per tutte le persone malate della grande famiglia di Radio Maria, e continuiamo a rimanere uniti in comunione di preghiera nell'attesa del trionfo del cuore immacolato di Maria. Alla prossima puntata da parte di Diego Manetti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.